Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Signore, l'uomo, un contadino, ti ha aiutato. Lui ha portato la croce e ha compiuto una parte della tua missione. Un laico esemplare che nella Chiesa ha risposto alla chiamata di portare la croce. Ha risposto alla chiamata alla santità, all'evangelizzazione, alle buone opere cristiane, alla rinascita della Chiesa. La Via Crucis va avanti. I passi di Simone vanno avanti. Il messaggio: riparate il mondo con la preghiera, con i sacramenti, con la parola di Dio. Molti laici lo hanno portato in tutto il mondo. Signore, ti ringraziamo per tutti i collaboratori, per coloro che hai entusiasmato, per tutti quelli che hai cambiato qui, come hai fatto con Simone. Fa che il Vangelo illumini tutta la Chiesa, che ogni cuore possa sentire il tuo messaggio e il tuo Vangelo, che ognuno senta il tuo amore e riconosca il tuo cuore e il tuo volto. Preghiamo per i missionari, per i pellegrini, per i collaboratori, le guide dei gruppi di preghiera nel mondo, i catechisti, e per tutti i Simone negli ospedali, nelle famiglie, sulle strade. O Gesù, libera l'umiltà nel nostro cuore, affinché possiamo tutti collaborare a ricostruire la tua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con che spasmo piangevi, mentre trepida vedevi il tuo Figlio nel dolore.